Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a Smart City. In questa trasmissione parliamo spesso di come le nuove tecnologie dell'informazione, come i big data, il cloud, l'internet of things, offrano immense opportunità di migliorare la vita di tutti noi, e tuttavia non si possono certo ignorare i rischi, in particolare quelli connessi con questioni di sicurezza informatica, di protezione dei dati e della privacy, che l'introduzione di queste tecnologie porta inevitabilmente con sé. Come si stanno comportando le imprese italiane rispetto a questi temi? Ebbene, l'Osservatorio Information Security and Privacy del Politecnico di Milano ha fatto il punto sulla situazione in un convegno intitolato Cybercrime, la minaccia invisibile che cambia il mondo, con cui ha presentato i risultati delle proprie ricerche. Ne parliamo con il responsabile scientifico, appunto, dell'Osservatorio, Gabriele Fagioli. Buonasera, Fagioli. Buonasera. Allora, questo è stato un anno, tra l'altro, pieno di attacchi hacker e di eventi di questo tipo. Senta, le chiedo, in questo scenario le imprese italiane, appunto, che cosa stanno facendo intanto? Si sono messe in moto, stanno affrontando il problema? Beh, l'attenzione sul tema è sicuramente aumentata enormemente anche a causa delle notizie di stampa che naturalmente hanno portato il problema all'attenzione di tutti coloro, del top manager, di tutti coloro poi che si occupano di questa materia nelle aziende, nelle pubbliche amministrazioni. Questo non toglie che a livello italiano ci sia ancora un'attenzione a macchia di leopardo, in particolare le grandi imprese, soprattutto dei settori ad alta tecnologia o molto consumeristiche, le infrastrutture critiche, sono avanti nell'analisi della problematica. Quando si scende sulle PMI o su settori di mercato più industriale, la nostra percezione è che l'attenzione non sia ancora al massimo livello. Anche la figura di CSO, che esiste ormai, cioè del Chief Security Officer, esattamente, è presente ormai in diverse realtà, ma non è ancora considerata da tutte le tipologie di aziende italiane come una figura strettamente necessaria. E apicale. Senta, allora, dicevamo alcune delle parole chiave che ho anche usato nell'introduzione e che rappresentano alcuni degli aspetti più innovativi delle nuove tecnologie informatiche portano con sé poi delle minacce specifiche. Ecco, per esempio, se le dico Internet of Things, quali sono queste minacce specifiche? Beh, per Internet of Things intendiamo quei miliardi oggi di apparecchi che possono essere dai sensori agli scaldabagni alle macchine che sono connesse. Questo vuol dire aumento esponenziale della superficie di attacco potenziale, certo. Superficie di attacco che può essere orientata o a richiedere denaro o ad avere effetti distruttivi e dannosi verso le persone. Banalmente, uno di quei sensori che servono per stabilire, non so, se un posto auto è libero o occupato, può teoricamente essere un punto fisico cui un hacker si connette per attaccare un sistema informatico. Esattamente così, è una teoria e anche pratica. Ecco, benissimo. Senta, un'altra parola chiave dei nostri giorni è cloud. Quali sono qui i problemi di sicurezza informatica più importanti? Beh, le piattaforme di cloud computing, su cui c'è anche uno sviluppo a livello di, europeo di politica per spingerlo al massimo nei prossimi anni, sono sicuramente uno dei servizi informatici oggi più attaccati. Questo perché la condensazione su pochi grandi provider infrastrutturali e applicativi fa sì che un hacker che voglia attaccare una piattaforma di cloud riesce a perforarla, sta attaccando migliaia, decine di migliaia di soggetti che utilizzano la cloud. Quindi l'accentramento delle tecnologie porta a un aumento sensibile del rischio. Altra parola chiave, mobile, e questa, vabbè, una rivoluzione che conosciamo anche nella vita di tutti i giorni. Che problemi porta con sé? Il mobile porta dietro dei problemi simili a quelli dell'Internet of Things, con la differenza che l'elemento umano aumenta esponenzialmente il rischio. Ognuno di noi usa le tecnologie massicciamente, non solamente passivamente, ma anche attivamente. La mobilità si porta dietro anche la scarsa attenzione delle persone nell'utilizzo. Ecco, puntualizziamo per capirci che parliamo del mobile utilizzato appunto per mandare la fotografia di quello che si è mangiato al ristorante, ma ci sono per esempio aziende che fanno lavorare in mobilità i propri lavoratori con degli strumenti che saranno i soliti tablet, computer o quel che è. Ecco, lì ci sono dei pericoli appunto. Ci sono dei pericoli perché queste tecnologie possono non solo essere usate con leggerezza alle persone che le hanno in mano, ma permettono anche di raccogliere e utilizzare dati molto delicati rispetto all'utilizzo che ne fanno le persone, per esempio sulla geolocalizzazione, e questo può portare poi a delle tutela per i soggetti che usano i device mobili. Tra l'altro, in questi casi addirittura gli attacchi hacker più sofisticati mirano proprio alla persona, no? esattamente, ci sono attacchi che fanno leva sulla disattenzione delle persone, sull'incapacità delle persone di comprendere che c'è davanti in realtà una frode, e tipicamente stanno avendo grande successo perché mirano a ottenere un ritorno economico piccolo ma da tante persone, e quindi sono particolarmente insidiose. Va bene, grazie Gabriele Fagioli. Grazie a voi, arrivederci. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani, buona serata.